Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mio zio Carlo fece la maratona nell'86, quando io ero nata da poco. È lui che mi ha parlato per la prima volta con gli occhi lucidi del percorso, mostrandomelo su una vecchia cartina sbiadita che è ancora fissa al muro. Io sono Alice, ho 28 anni, sono di Pescara ma vivo a Roma e come professione sono giornalista e videomaker. Mi piace viaggiare per il mondo e raccontare storie da riportare in Italia. E ormai lo sapete, se c'è stata una prima categoria che ci ha fatto capire che esistevano delle categorie in questo programma, quella categoria, e l'ho detto tre volte di fila, ha a che fare con la corsa e, nella fattispecie, con la maratona. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questo programma si chiama Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo una storia diversa e la storia che raccontiamo oggi, quella di Alice, ha a che fare con l'argomento di cui vi ho appena parlato, con il correre. Ma. Anche se, visto che ormai ci sono dei fanatici della corsa e oggi di quello parliamo, di quella forma di impallinamento per la corsa, questa cosa crea chiaramente un solco, no? Quelli che stanno di qua e quelli che stanno di là. Chiedo a quelli che stanno di là di non cambiare canale, perché non ci metteremo a parlare di maratone in maniera ossessiva, insomma a nessuno interessa farlo, altrimenti andremo su un'altra radio, giusto Paolino? Invece no, noi oggi raccontiamo una storia che è la storia di Alice e cerchiamo di avere a che fare con tutte le persone che hanno deciso di fare qualche cosa che in qualche modo li motiva, come ad esempio la corsa, e quindi muovere le gambe e muoversi nello spazio. 349-238-6666, ma anche voi siete qui, Radio 24 sul profilo Facebook. Intanto arrivano alcuni messaggi. Alice, anche lei Alice, correvo da ragazzina, facevo le campestri a scuola, la corsa campestre, come no? Ed ero la più brava, poi ho smesso e ho ripreso 2 anni fa con la corsa di una radio vostra concorrente, appunto. E ora non mi fermo più. 349-238-6666. Giulia, quando corro mi sento sempre meglio. Sto preparando la Marathon de Sable, che è, se non sbaglio, una corsa nel deserto. Lo so perché l'amico Alex Bellini l'aveva fatta. Eccolo qua, Marathon de Sable è una corsa sulla distanza di 240 km che si svolge interamente nel Sahara marocchino. Benissimo, ed è così che iniziamo questa puntata, parlando di corsa, ma soprattutto parlando di una corsa in particolare, la Maratona di New York. New York, 3 novembre 2013. Sono al 16° miglio, quasi 26 km percorsi. Salgo sul Queensboro Bridge, il ponte che unisce il Queens a Manhattan. È l'unico luogo di New York in cui quel giorno ho sentito silenzio. Lo start è distante 2 ore e 32 minuti, per me e Claudio, senza il quale non avrei mai immaginato di poter compiere questa impresa. A dire il vero, la giornata era iniziata 3 ore prima dello start, nell'alba gelida di Staten Island, ad aspettare il colpo iniziale insieme agli altri 50.000 smaniosi di lanciarsi. Mio zio Carlo fece la maratona nell'86 e io ero nata da poco. È lui che mi ha parlato per la prima volta con gli occhi lucidi del percorso, mostrandomelo su una vecchia cartina sbiadita che ho ancora fissa al muro. A Brooklyn era iniziata la festa. Ad ogni chilometro una band suona, un bambino cerca la tua mano, donne e uomini di ogni età gridano il tuo nome. I primi chilometri volano veloci tra messicani, portoghesi, italiani, irlandesi e cornamuse, batterie, DJ. Riprendo tutto con la GoPro senza riuscire a togliermi un sorriso ebete, la pelle d'oca e le lacrime dagli occhi. Non sto correndo, mi immergo nell'energia informe di una città. Poi arriva la perplessità e il distacco del quartiere ebreo. Le gambe vanno da sole, sono distratta da cartelli ironici. Poi si entra nel Queens. Cambiano le facce. Una donna urla: Alice, make this your wonderland. Ho il nome sulla canotta. Ad ogni chilometro cambia la musica: hip hop, vecchi pezzi dei Rolling Stone e dei Led Zeppelin, gospel, jazz, le voci nere, il ritmo dei bonghi. Piango su un brano che dice che non ci si deve arrendere mai. La preparazione per la maratona di New York è nata un po' per caso. Un amico mi ha chiesto di partecipare alla maratona. Ho iniziato il mio allenamento ad agosto, quindi mi sono preparata per 2 mesi e mezzo, 3 mesi, però ho sempre avuto la passione della corsa, quindi è stato, diciamo, facile per me prolungare quelli che erano i miei soliti 10 chilometri a 15 chilometri, 21 chilometri, fino ai 30, che di solito si fanno 2-3 volte prima di affrontare la maratona. Ed è poco dopo quest'onda di sensazioni che si gira. I maratoneti si infilano sul Queensboro Bridge ed è qui che si crea la magia. Il ponte non ospita pubblico, non ci sono ristori, acqua, sali, non c'è rumore. Si sentono solo i passi di chi sta correndo intorno a te. È come percorrere una navata sacra, nessuno parla, non c'è motivo di farlo. La prima immersione e i suoi primi 25 chilometri sono stati rapidi, violenti, splendidi. E questo è il primo momento dopo ore in cui si rimane soli. Si digerisce l'emozione passo dopo passo, si inizia a sentire la fatica psicologica. Quanto manca? Lo skyline di Manhattan scorre sulla sinistra, migliaia di gambe passano alla mia destra. C'è chi piange soffrendo, chi vomita, chi ha i crampi. Noi andiamo. Ed è dopo più di un chilometro di ponte, quando inizia l'immensa curva che butta i maratoneti sulla First Avenue, che capisco perché correre la maratona di New York sia un evento. Inspiegabile, indimenticabile. Un boato rompe il silenzio. Manhattan dà il benvenuto a tutti i runner che imboccano la strada più lunga e indimenticabile della gara. Impossibile non sorridere, stringere le mani, prendere pezzi di cibo che ti offre la gente. Una scia informe e colorata percorre Manhattan. Sale ad Harlem, raggiunge il Bronx. Tra il 29esimo e il 35esimo chilometro capisci se puoi farcela, mi dice Claudio, che è alla sua sesta maratona di New York e conosce ogni metro a memoria. Molti esplodono, lasciano la corsa iniziando a camminare. L'importante è tagliare il traguardo, ma io voglio farlo correndo. A 8 chilometri dal traguardo si entra in Central Park e sembrano tutti sempre più vicini. Ho bisogno di coraggio, tutti ne hanno bisogno quando si è quasi all'arrivo. Le caviglie iniziano a farmi male, il respiro si mischia allo sforzo. Dunque, il momento di maggior fatica è stato dopo il 33esimo chilometro, quando si entra in Central Park e le mie caviglie sono molto sottili, quindi non reggevano più lo sforzo. Però diciamo che la cosa che più ti manda avanti in una maratona come quella è la gente che urla il tuo nome se ce l'hai sopra la maglietta e ti permette di arrivare fino alla fine senza pensare che stai soffrendo da morire e vuoi fermarti. Quando si esce sulla 59esima strada c'è un'intera piazza ad acclamare ed è qui che sparisce ciò che fa male. Si corre, si va al traguardo. È quando scorgo da lontano le tribune e la finish line che l'emozione torna inspiegabile. Pensi che ce l'hai fatta, che ce l'abbiamo fatta. New York ci ha aiutati a farcela. Ho percorso per la prima volta 26 miglia e 2 in 4 ore, 8 minuti e 23 secondi. Ho fatto la prima maratona della mia vita nella città che mi fa sempre sentire a casa, perché è la casa di tutti, perché ognuno la rende casa propria. Dopo il traguardo, invece, c'è il vuoto. Le sensazioni si affievoliscono e lentamente iniziano i dolori. L'acido lattico ti mangia le gambe, le articolazioni sembrano sgretolarsi. Il corpo piange mentre tu continui a ridere. Ma non importa, hai la tua medaglia pesante al collo, la tua coperta termica sulle spalle, gli ultimi metri prima di tornare a casa. E mi ripeto in testa mentre il taxi si allontana dalla folla e i maratoneti continuano ad arrivare a migliaia: non è la meta che conta, tutti arriveremo a destinazione in un modo o nell'altro, ciò che conta è il percorso che ti porta fin là. A million letters, they couldn't make me change my mind. I think I better run, run, run, run. I think I better run, run, run, run. Then I catch me falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling. How you want it to be? Negli ultimi anni si è diffusa una nuova specie. È una specie particolarmente diffusa nelle grandi città, ma che si adatta facilmente ovunque. È il fanatico della corsa. Il fanatico della corsa, in genere, sta in una fascia tra i 35 e i 55 anni. Non è un appassionato di tecnologia, ma ha tutto quello che serve. Anzi, la specie dà il meglio da quando i telefonini sono diventati smartphone. È grazie a questa innovazione che il fanatico della corsa può scaricare le applicazioni adatte alla sua specie. Di solito scarica compilation ad hoc per gli allenamenti, scegliendo musica che dà la carica ma che non ascolterebbe mai altrimenti. Scarica allenamenti specifici e sceglie il proprio solo dopo averne provati parecchi. Dalle corse coi pesi, a quello delle ripetute a tutta velocità, fino al fartlek, un tipo di allenamento svedese basato sul divertimento che combina prestazioni di diversa durata e intensità. Sa a memoria il suo personale sui 1.500, sui 3.000, sui 5.000 e sui 10.000. La sua smania di sapere lo porta ad indossare il cardiofrequenzimetro collegato a un orologio GPS quando decide di lavorare sulla potenza. Dopo le feste di Natale, il fanatico lavora in fascia 2 per bruciare più grassi, altrimenti in fascia 4 per migliorare le prestazioni agonistiche. L'oggetto dei suoi desideri è la GoPro, per fare le riprese delle gare. Poi invita a cena gli amici e gli fa vedere le sue prestazioni migliori, proprio come gli sposi novelli invitano gli amici per fargli vedere il filmino delle nozze. Le sue scarpe sono sempre due paia, di Gore-Tex impermeabile e un altro paio leggerissime per tutto il resto. Ma possiede anche almeno un paio di scarpe da trail running, con la suola prensile per lo sterrato e la monostringa. Lui sa che le suole dopo 600 km di passi andrebbero cambiate, ma quando trova la scarpa giusta non la cambierebbe per tutto l'oro del mondo. La sua divisa di solito è di materiale traspirante, ma resiste anche la tipologia di fanatico che usa magliette di quando era un adolescente e pantaloni di maglina. Tratto comune a entrambi sono comunque le cuffiette e il porta smartphone in neoprene al braccio. Il fanatico della corsa ama le letture legate alla corsa, conosce Murakami prima come maratoneta e poi come scrittore e ha reso Born to Run di Chris McDougall un bestseller. Punta alla maratona ma aspira all'ultramaratona, i 100 km di corsa, almeno una volta nella vita, ed è affascinato dalle corse in montagna. Di solito corre o molto presto la mattina o molto tardi la sera. Se in un parco si incontrano per caso due fanatici della corsa, si innesca una competizione immediata, fino a quando il più debole, prima di desistere e sventolare bandiera bianca, cambia percorso fingendo che in realtà non stava gareggiando. Tornato a casa, confronta i percorsi di allenamento con altri fanatici in gruppi di chat che si creano spontaneamente e passa il tempo a parlare di tendiniti, gonfiore le ginocchia e mal di schiena. Gioisce dei chilometri percorsi e prende come modello di vita chi ne fa di più. La corsa è bella perché è un esercizio semplice. È una delle poche cose che si possono fare quando si vuole e ovunque. E forse è l'unica cosa che si fa gratis. Perché è una fatica che ti svuota di tossine e ancora di più di pensieri inutili. È un momento privato, una pausa dal caos, perché dà la possibilità di vedere le città da un altro punto di vista. Ma per il fanatico della corsa, tutto questo non è che un vago ricordo. Se vi domandate come mai so tutte queste cose, la risposta è semplice. Io, un po', sono un fanatico della corsa. Chiaramente alla partenza, Alice, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina, voi siete qui. C'è un nugolo di persone attorno, c'è una luce abbastanza nebbiosa, bianca, quasi caliginosa dell'alba, delle prime ore di New York. Non so a che ora parte esattamente la maratona di New York, credo verso le 9 della mattina. È un sacco di gente proprio appena partita, c'è le braccia in movimento. Lei ha un braccio alzato come a salutare non so chi, una cuffia rossa in testa e un gran sorriso sulle labbra. E come succede ogni tanto quando abbiamo storie come questa, come quella di Alice, che hanno a che fare con una cosa specifica, nel suo caso è super specifica perché è una maratona, ma è a New York, quindi è la maratona a cui tutti più o meno pensano quando pensano ad una maratona. Dicevo, come ogni tanto capita, ci piace parlare con qualcuno che ne sa di più di noi, di me sicuramente, dell'argomento che trattiamo. In questo caso però abbiamo preferito non cercare di parlare con, che so, un medico dello sport o con un maratoneta che ha vinto le Olimpiadi ad Atene, ad esempio, no? Mi viene in mente il primo Baldini, il primo che ha vinto una maratona poco importante. Abbiamo deciso di sentire un amico della radio, perché spesso è ospite qui e so anche che è ancora un ascoltatore, che nella vita faceva un po' altro, sostanzialmente faceva ridere e lo fa ancora, però mi pare che il suo impegno più importante adesso sia un altro, visto che sostanzialmente parla sempre e volentieri di corsa. Voi ce l'avete presente come Aldo Giovanni e Giacomo, lui ovviamente è una parte di Aldo Giovanni e Giacomo ed è Giovanni Giovanni Storti. Pronto Giovanni, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Diciamo sono un cialtrone della corsa, come lo ero nello spettacolo, come lo sono nello spettacolo. Come lo sei, infatti no, perché effettivamente quando si dice ma cosa stanno facendo adesso Aldo, Giovanni e Giacomo, senti che ti rispondono, ma Giovanni corre sostanzialmente. Sì, è vero, ma però non è proprio così. Diciamo che ci si ritaglia degli spazi importanti. Giovanni, innanzitutto, quando è cominciata questa passione? Perché noi oggi cerchiamo di parlare, passami il termine, di raccontare le storie proprio dei flippati con la corsa. E quindi ci sei venuto in mente tu, perché un po' c'è negli ultimi anni, hai intorno quest'aura. Da quando è che è cominciata questo trip per la corsa? È iniziata nel mezzo del cammin di mia vita, in quell'età lì un po' così, ho fatto delle conoscenze. In realtà ho fatto il percorso inverso, perché sono andato prima a correre in montagna e i trail, e poi vabbè un po' in strada, però le mie preferenze sono sempre le corse in natura. E a questo proposito, poi... a questo proposito Giovanni, scusami, è uscito poco tempo fa il libro che hai scritto insieme a Franz Rossi, che si intitola Corro perché mia mamma mi picchia, no? Perché ognuno più o meno corre per un motivo, tu dici nel libro, c'è chi per dimagrire, chi per migliorare le proprie performance, invece tu hai cominciato perché tua mamma ti picchiava, che è un'immagine che è abbastanza eloquente. Era campionessa di lancio della ciabatta pesante, e quindi bisognava imparare ad andare forte, e da lì è scattato il meccanismo che anni dopo mi ha portato a correre, ecco. Giovanni, tu però non eri uno che proprio non faceva nulla, perché tu insomma insegnavi acrobatica alla Paolo Grassi di Milano, cioè insomma avevi a che fare col tuo fisico, nella tua vita l'hai usato e l'hai usato bene. Sì, volevo fare col fisico, però la corsa la vedevo come una rottura di balle, come spesso succede. Gli sport di un altro tipo. E invece poi appunto andando a correre in natura mi è scattato questo meccanismo, perché ti dà la corsa in natura, ti dà un po' più di tenacia, gli imprevisti ti aiutano a affrontare in modo diverso le cose. E questo mi ha stimolato, ecco. Che differenza c'è esattamente tra la corsa in natura e una maratona qualunque? Beh, c'è una differenza abissale, sono quasi due sport diversi. La maratona è una corsa pazzesca di ritmo e di resistenza. La corsa in natura ti dà molto di più e attingi energia da quello che hai attorno, poi sai, siccome sono salite, discese, piano, cambi tantissimo il ritmo, cosa che in maratona è difficile da fare. Diciamo che la maratona è un po' più cronometrica, mentre la corsa in natura te la godi di più, ecco. Sei stato a correre tra gli altri posti in Marocco, in Tunisia, in Brasile, in Islanda, in Israele, in Libano, negli Stati Uniti, in Bolivia, in Svizzera. Cosa fai? Segui le corse in giro per il mondo, oppure cioè è uno sport diverso, come dici, rispetto al maratoneta, che vabbè c'è la maratona a New York come nel caso di Alice, o a Venezia, e ci vai. Voi invece che tipo di mappatura fate in giro per il mondo? Individuiamo, diciamo che le corse che mi piacciono di più sono quelle a tappe, dove ci sono 4-5 tappe in posti che non ho mai visitato, per cui ci si informa sulle corse un po' in giro per il mondo, e a seconda delle caratteristiche dice, cioè, andiamo a vedere com'è l'Islanda, e okay, un gruppetto parte, così unisci il fatto della conoscenza di un posto, della gente del posto e di una corsa in un luogo che non ho mai visto. Prima è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che diceva che si sta preparando per la Marathon de Sable. Tu la conosci? Sì. Hai in mente di farla? Non l'ho mai fatta. Ma abbiamo in mente di farla nel 2015. Ah, ok, so quindi è pianificata. Sì, però non so se avverrà, perché dipende sempre dalle condizioni fisiche. Cioè, perché in questo momento appunto sono 3 mesi che sono fermo, quindi... Se riprendo bene... Ah, perché adesso giusto, mi dicevi fuori onda che hai una borsite, una fascite, cosa che hai? Una fascite plantare, che è una cosa un po' complicata a passare, ecco, e quindi... Ti fa male la pianta del piede sostanzialmente? Esatto, l'infiammazione delle parti sotto il piede, tendini, legamenti, parti molli. E siccome ci cammini sopra comunque, non è che puoi andare in altro modo... questa cosa dura un po'. Si sente che lo stai un po' accusando, Giovanni, si sente dal tono. Guarda, adesso mi sto arrampicando sui muri, sto cercando di fare di tutto per fare qualcosa e non stare fermo. Giovanni, prima di salutarti e di ringraziarti, quando cosa esce? Un film adesso, fate uno spettacolo con Giacomo adesso Aldo. Uscirà in TV il nostro spettacolo teatrale che abbiamo fatto l'anno scorso, adesso okay. Dall'8 maggio, e stiamo preparando un film che inizieremo a girare a giugno, per cui se tutto va bene a Natale avremo un film nuovo. Perché in generale ci piace un sacco vedervi nelle pubblicità, però anche vedervi... Grazie ancora al... Diciamo, come si chiama? Trail Runner, giusto? È la definizione esatta. Sì, tre runner. Giovanni Storti, grazie Giovanni, a presto, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. E visto che con Giovanni si parlava di impallinati, chiudiamo oggi con questo messaggio che arriva da Paolo, che dice: ho corso tutte le maratone in giro per il mondo e ora mi sono dato all'Ironman. Olè, grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie a Mauro Pescio, ma grazie soprattutto ad Alice, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Emilio di Bergamo. La storia di lunedì è la mia e parla di quando fai delle cose che non dovresti fare sulla neve con la macchina. Questa è la mia storia e io sono qui.